Quando parliamo di localizzazione, a che cosa facciamo riferimento? Io ho detto che è un lavoro lungo, complesso, che coinvolge molte persone e che serve per trasferire di fatto un software da un paese dove nasce ad un altro paese che parla un'altra lingua. Ecco, per localizzazione che cosa definiamo? Come la definiresti? Beh, direi in termini molto semplici è un po' un'estensione del concetto di traduzione. Cioè, se tradizionalmente i prodotti, i contenuti venivano tradotti, pensiamo a un libro, per esempio, nel caso tipico, un programma deve essere localizzato, non solo occorre operare sui suoi contenuti testuali, ma occorre anche operare sulla parte tecnica, sul software, sulle immagini, e nel caso di un videogame evidentemente anche su tutti i contenuti audio che compongono il gioco. E naturalmente quando parliamo di software in generale, al di là del particolare mondo dei videogiochi che molti conoscono, parliamo di software che diventano sempre più multimediali, come si dice, quindi immagino che il lavoro aumenti sempre di più. È un settore, come dire, nascosto, ma sicuramente in grande crescita, occupa molte persone, soprattutto all'estero. Ovviamente in ogni paese ci sono dei gruppi di localizzazione, delle società di localizzazione, ma è un settore di quelli che cresce con la convergenza dei media. Se volessimo fare un esempio di un prodotto che viene realizzato magari negli Stati Uniti o comunque in un altro paese e viene portato in Italia, ecco, dietro a questo passaggio da uno stato dove viene prodotto ad uno stato dove viene utilizzato, ecco, quanto è il lavoro e quanti sono poi gli ingredienti anche che entrano nel software o comunque vengono trasformati, parole, testi, finestre, eccetera eccetera. Ma per fare un esempio, diciamo, penso noto a tutto il pubblico, sicuramente prendiamo Office, che è un prodotto che ha tra l'altro una storia molto lunga, e è arrivato alla sua release numero 12 o 13 attualmente, e ovviamente si porta al proprio interno tutti i contenuti delle precedenti versioni in modo possibilmente compatibile, perché le opzioni che vengono visualizzate oggi sullo schermo non possono cambiare nel corso del tempo senza creare un disorientamento da parte degli utenti. Quindi noi amiamo trovare le stesse opzioni nello stesso luogo. Chi di voi ha avuto l'opportunità di vedere il passaggio dal menu avvio al menu start di Windows, sa bene anche le polemiche che talvolta seguono scelte che apparentemente sembrano di tipo puramente linguistico. Il lavoro sostanzialmente consiste nella costruzione di team di traduttori, di linguisti, che sono coordinati in maniera abbastanza gerarchica con dei revisori, delle persone che possono quindi validare il lavoro dei linguisti e che seguono delle linee guida che sono piuttosto ben definite, proprio per evitare eventuali problemi di coerenza tra le varie parti dei programmi, e dall'altra parte seguono anche tutta una procedura che serve per poter estrarre i contenuti, mettere a disposizione dei linguisti e successivamente reintegrarli e poterli rendere fruibili all'interno del programma. Ovviamente l'ultima fase, che evidentemente non può mancare trattandosi di un programma software, è una fase di testing dell'applicativo, durante il quale uno spesso scopre che quello che sembrava una buona traduzione, quando si considera una stringa fuori dal contesto, invece all'interno del contesto in cui compare, appunto un avvio può più meglio essere tradotto come start nel momento in cui può lanciare più di un applicativo e pertanto essere più adeguato al contesto in cui viene calato. Se guardiamo ai numeri, ad esempio tu facevi riferimento a Office, mi dicevi che ci sono oltre 30.000 parole che devono essere tradotte, quindi insomma il lavoro è sicuramente molto, e a volte molte di queste parole appaiono raramente in messaggi che poche volte magari un utente medio vede. Tu dicevi che questo è un lavoro simile alla traduzione di un libro, quindi immagino ci sia anche un rapporto tra chi ha prodotto il software, magari scritto i testi del software principale, e chi lo deve tradurre. Mi permetto prima di correggere il dato, perché sono circa 300.000 le parole che ogni volta un aggiornamento di Office può portare con sé. Quindi diciamo, il produttore di un software può investire anche quantità rilevanti di tempo, di energia a generare gli aggiornamenti. Globalmente un applicativo diciamo grosso può avere anche milioni di parole al proprio interno, di cui diciamo circa 10% appaiono nell'interfaccia e il restante 90% compaiono all'interno dell'help, delle stringhe di errore che vengono visualizzate appunto nei vari momenti dell'utilizzo del programma. Il rapporto con i redattori tecnici dei programmi è spesso, devo dire, estremamente mediato, soprattutto man mano che questa industria va configurandosi con un'industria estremamente complessa. Pensiamo che qualcuno in qualche parte del mondo, spesso anche in paesi diciamo emergenti, quindi in India, molto spesso redige dei contenuti che poi vengono tradotti in lingue, quindi i contenuti vengono redatti ormai quasi sempre in inglese, anche quando i programmi sono italiani, proprio perché poi occorre creare dei team che lavorano con una coppia di lingue che sia sempre la stessa, dall'inglese al francese o dall'inglese al tedesco. È più difficile, evidente, avere dall'italiano al francese e dall'italiano al tedesco, e quindi si tende a lavorare con una lingua di partenza che è quella di solito l'inglese. Il rapporto, dicevo, è immediato, perché tra l'origine dei dati, la persona che scrive i contenuti e coloro che li traducono, di solito c'è un project manager dedicato alla localizzazione internazionale, quindi che raccoglie tutti i contenuti e che poi distribuisce. Poi ci sono dei coordinatori locali, dei project manager locali che gestiscono team che possono arrivare anche ad avere 20 persone in parallelo per riuscire ad arrivare nei tempi giusti al momento del rilascio. E poi dei coordinatori linguistici a cui poi afferiscono e riferiscono dei team di traduzioni veri e propri. Quindi quello che succede è che c'è un traduttore che si trova diciamo in una località qualunque di un paese e che sta lavorando su una stringa, può fare una domanda al coordinatore linguistico, il quale ha una visibilità maggiore sul progetto, anche di tool spesso più complessi, il quale se riesce a rispondere dà a sua volta supporto al traduttore. Diversamente questo scala al coordinatore internazionale, il quale eventualmente scala a sua volta al coordinatore dei contenuti, spesso non al redattore originale dei contenuti. Quindi è una catena che coinvolge cinque livelli di interfaccia. Quindi immagino anche con tempi non brevi. No, il problema è che tutto deve girare estremamente rapidamente. Come al solito il prodotto deve essere pronto ieri. Certo. Sempre nel business funziona così, ma insomma non solo nel business. Quando parliamo di localizzazione parliamo solo di software, tu hai accennato al mondo dei videogiochi, tra poco parleremo anche di videogiochi. Parliamo anche del mondo web, quindi banalmente di siti web. Sì. Tecnologie sono le stesse, i metodi di testing sono magari un po' diversi, perché nel caso di un prodotto viene mandata una build del programma integrato, quindi un applicativo in versione alfa o beta per essere testata. Nel caso di un applicativo online invece viene pubblicato su un sito, diciamo un sito ghost, un sito fantasma, accessibile unicamente al team di localizzazione. Tu, Fabio, hai fatto riferimento ai traduttori, a questi team di produzione che appunto traducono da una lingua all'altra. Questo è un lavoro che viene fatto manualmente, quindi è un lavoro artigianale. Quanto entra la tecnologia e anche tecnologie molto moderne in questo segmento di mercato? Diciamo che ci sono sicuramente due importanti aspetti da considerare, tecnologici, nella collaborazione prima di tutto, che permette ai traduttori di lavorare ricevendo pacchetti di testo da tradurre e rispedendoli ai coordinatori in modo molto facile, anche spesso ormai anche integrato, quindi attraverso degli strumenti che permettono di controllare che cosa si è già tradotto, quanto rimane da tradurre e e anche per chi organizza, gestire i team, che sono tutti team virtuali, attenzione, i software vengono tradotti quasi tutti a persone che non stanno, che non lavorano insieme nello stesso ufficio, ecco, no? Questo è ormai un paradigma piuttosto consolidato nell'industria. Secondo aspetto importante sono gli strumenti di computer aided translation, i CAT, come si chiamano tecnicamente, che non hanno, diciamo, non dico niente a che fare, ma non sono la tipica traduzione automatica come molti pensano che sia, quello che può essere generato con l'aiuto di un computer. Sono dei programmi che nascono come le grandi memorie, no? Delle memorie di traduzioni, nei quali i traduttori riversano man mano che traducono frase per frase la loro traduzione. Alla successiva occorrenza della medesima stringa da tradurre, il programma ripropone al traduttore la traduzione che ha già in memoria, e questo sostanzialmente il traduttore la valida, per verificare se è adeguata al contesto, quindi andando molto più rapido in linea di massima rispetto a quelle che possono essere le produttività tradizionali. Ecco. Parliamo di videogiochi, ecco, in questo caso come e soprattutto che cosa cambia? Beh, diciamo l'elemento forse più complesso è quello dell'audio, del doppiaggio, perché ovviamente ogni cambiamento che può essere fatto in fase di redazione dei testi deve poi essere rispecchiato nella recitazione. Un aspetto che vale la pena di citare, prima parlavi dei tempi, ormai non si parla più di traduzione anche per un motivo, perché la traduzione di solito parte quando l'opera è terminata. Nel caso del software i tempi sono talmente brucianti che si traduce mentre si sta sviluppando il prodotto, e quindi c'è un costante lavoro in sincrono con i team di sviluppo, che producono contenuti che vengono tradotti, vengono recitati, integrati, testati, e questo ciclo si ripete nel corso della vita del progetto più di una volta. Quindi nel caso dell'audio ovviamente la complessità è che bisogna convocare attori, metterli in uno studio di registrazione, dare loro uno script, fare loro quindi un copione, far recitare il testo dopo aver assegnato tutte le parti, il tutto mentre il copione a sua volta si evolve. Moltiplicato questo per un certo numero di paesi, noi capita di lavorare su progetti ormai di anche una decina di lingue, significa che, diciamo, lunedì devono entrare in sala di registrazione in 10 paesi diversi 10 persone, tutto deve essere allineato per quel dato momento, come se si andasse in onda in quel momento. Il lavoro organizzativo che sta dietro a questi progetti è veramente molto, molto elevato.